Buonasera Radio Città del Capo, Radio Metropolitana ancora per quelli insomma che amano chiamarla così, un po' questo sottotitolo è caduto in disuso, però vabbè, siamo sempre qua, noi, come amiamo presentarci o insomma depresentarci, perché insomma non siamo particolarmente presentabili. Eliseo Scarpa e Max Macchia, la tua voce è molto più bella, mi devi spiegare perché cosa tu sei un po' triste stasera. Vabbè, dai. Per quello è solo dovevi per dirla, niente insomma, da fare prossima volta che stai tu faccio un concerto do anche in diretta, do anche il numero di telefono così se qualcuno vuole chiamare magari ti dice una cosa carina, ma non aiuta lo stesso. Non ti aiuta perché siamo in Radio Città del Capo, non aiuta. Tu dici a prescindere, qualsiasi cosa succeda, non ho modo di avere una mano. Sì, qua però dentro. Mi sento un po' di ecco, così va bene. Così hai una voce tonico, più profonda, tonico. Però tu, devo dire la verità. Perché secondo me ti faccio vedere poi una cosettina. Sì, va a toccare la bara che poi... La bara. Sì, fa questi rumori di tipo bara. È vero, un po' sento. Bara da morto che uno cerca di sopravvivere o di uscire. Sì, in effetti il tentativo è quello di uscire, questa sera poi veniamo a uscire fisicamente dalla radio. Ma mi voglio rassicurare in primo luogo insomma che tu sia dentro. Sì, sono dentro, sono molto dentro, anche dentro i tuoi pensieri. Sì, soprattutto dentro quello. Ecco. Sound Art, quindi stasera 451 frammenti sonori, e ci occupiamo di qualcosa che comunque molto spesso attraversato nei 10 anni che ci sopportate. 451, la sound art è l'arte di lavorare sul suono, quindi una riflessione non tanto sulla musica, sulla composizione strutturale di questa, ma è proprio il suono, quindi la riflessione e l'operazione che si compie appunto sul suono materia. In questo senso siamo molto anche distanti poi per certi versi dalla musica, forse siamo dentro la musica ma anche dentro forme sinergiche di arte tra installazione e arte visuale, un mondo piuttosto variegato, quello della sound art, l'architettura anche, che copre momenti dal più naturalistico al più all'artificioso. In effetti questa sera sentiremo sia caratterizzazioni ambientali di tipo naturistico e anche caratterizzazioni ambientali invece un po' più urbane, e di conseguenza insomma la sound art si muove dentro questa sinergia, dentro questa artisticità totale. Forse anche in questo senso può essere come dire sfuggente come definizione, ma tant'è insomma che ci interessava lavorare su questo. E iniziamo con un grande che viene altro che da sound art, dall'arte bruta e cattiva. Sì, parliamo di Chris Watson, personaggio che ha attraversato 451 in altre occasioni con altri dischi molto interessanti. Ricordiamo Cima Verde sull'isola del Galapagos e un altro disco successivo sempre dedicato al discorso della microfonazione, del trattamento sonoro di ambientazioni di tipo naturalistico, dunque connessa alle isole, dagli scrosci d'acqua a dimensioni legate appunto a suoni prodotti dalla natura, dunque sia dalla natura in movimento attraverso le intemperie e i venti vari, sia la natura rappresentata da vari suoni prodotti da animali di vario tipo. In questo caso invece Chris Watson va a sperimentare un lavoro molto interessante su un treno fantasma che lui praticamente realizza attraverso un collage di registrazioni di vari treni che attraversano alcune zone del Messico, che lui praticamente incolla costruendo una sorta appunto di treno ipotetico e fantasma, legato appunto all'idea del fantasma. E questo è un lavoro che è stato oltretutto realizzato per la BBC, un lavoro molto molto ben costruito a livello sonoro e sviluppato in maniera assolutamente intrigante e affascinante dal punto di vista appunto anche concettuale. È un disco uscito oltretutto da pochissimi mesi, a ottobre del 2011, l'ultimo lavoro, oltretutto per un'etichetta che non ha bisogno di grandi presentazioni, scusate, la Touch. La touch. La touch, il tocco, ecco, e dunque, che simpatia. Magic touch. Il magic touch. È un'altra storia. È un'altra storia. Andiamo a presentare, dunque, a ascoltarcelo a questo punto, una traccia tratta da El Tren Fantasma, uscito appunto per la touch di Chris Watson. Il brano che abbiamo selezionato è Mexico di F. E andiamocelo dunque ad ascoltare. Sound Art stasera, 451 frammenti sonori, Chris Watson. Thank you. si scappa bene. Tells you there's something wrong somewhere, but actually there isn't anything. It's just stuck. What did you say? What? I can breathe smoke. Oh yeah, that's right. Do it again. Yeah. You're like a dragon. Yeah. Okay, here we are. Swords, baby. Oh, it's one from the off! Something's get it! Look, just found it! Out we go. What are we doing here? E dopo Chris Watson abbiamo ascoltato Peter Cusack, tutte e due inglesi. E se Watson viene dalla prima, insomma, dicevamo, faceva una battutella legata ai suoi trascorsi, tutt'altro che di sound art, ma di musiche sperimentali sul rumore, rumore anche wave, rumore industriale, storici Cabaret Voltaire. E poi nel corso degli anni, dopo essere passato anche da Fair Trio, si è dato a queste sonorità di manipolazione e di timbrica naturale, con, insomma, una comunque memoria sempre attiva per quanto riguarda il trattamento del suono, in questo caso del suono rumore, tante volte. E con Peter Cusack che invece si va su un terreno, se appunto Watson ci ricorda i vecchi terrorismi industriali Cabaret Voltaire, con Cusack che invece ritroviamo i vecchi collettivi storici della improvvisazione radicale, Derek Bailey, John Stevens, Evan Parker, e lo stesso appunto Cusack che esce proprio da quell'ensemble decisamente incendiari con l'improvvisazione che diventava anche una sorta di possibilità politica data appunto da forme libere di espressività collegate insieme, appunto creando appunto una sorta di cervello collettivo e quindi sonoro. Nel corso degli anni è cambiato molto l'interesse di Cusack per la musica, ci siamo avvicinati sempre di più verso un trattamento del suono che abbiamo sentito qua, addirittura con due pezzi, due frammenti che ricordano Chernobyl, quindi anche la memoria, come dire, rivissuta della sciagura atomica di Chernobyl, appunto rivisitata oggi a livello sonoro, quindi in questo momento degli uccellini che sembra così abbastanza, come dire, acquietante, quasi appunto una sorta di quiete trovata dentro la natura. Poi c'è anche quell'aspetto invece più inquietante dato da questo suono delle rane che diventa anche un po' stridente, e questo appunto preso dai due esperimenti da appunto Chernobyl, dalle sonorizzazioni di Chernobyl, anzi dai field recording poi trattati appunto sul territorio di Chernobyl ultimamente. E poi un piccolo frammento dedicato allo shopping, appunto di memoria ancora marxista Cusack, quindi gioca insomma sul consumo e su come anche vengono poi in una certa qual maniera plagiati i bambini appunto attraverso anche il consumo dei giocattoli. C'è questo momento che sembrerebbe molto giocoso tra, e lo è anche per alcuni aspetti, con vari suonettini dei vari giocattoli, poi questi bambini che quasi litigano per avere il giocattolo più bello, quello che piace di più, e insomma quindi anche lì un momento insomma dove Cusack riesce col trattamento sonoro del field recording a dare anche un elemento poetico, se vogliamo, di poetica, insomma, anche di matrice insomma sociale, quantomeno. Sì, la merce, no? La merce attraverso il giocattolo, dunque un discorso anche sonoro, però sulla mercificazione fin da bambini. Sì, continuando una sorta di percorso, anche se più dentro forse veramente la sound art, se questi due personaggi ci sono arrivati, la sound art, partendo veramente dagli antipodi, anche uno perché veniva dal rumore industriale, appunto wave, sì, molto crudo, e Cusack che veniva dall'improvvisazione radicale, quindi non è la riflessione sul suono, ma era lo sviluppo, la creazione del suono lì su un momento e con la collettivizzazione di questo, della creazione, quindi due opposti che ritroviamo invece in maniera differente dentro Nicola Sani. Sì, Nicola Sani, la prima volta oltretutto che lo presentiamo all'interno di 451 frammenti sonori, personaggio non particolarmente conosciuto ma interessante soprattutto nei due lavori che abbiamo ritrovato di questo personaggio piuttosto giovane, ferrarese oltretutto, classe vicino, siamo qua vicini. Chissà mai che si trova a Ferrara e ascolta la Radio Città del Capo, si sorprenderà che qualcuno mandi i suoi lavori. In particolare, appunto, nato nel 1961, autore e compositore che esce ovviamente dalla scuola contemporanea, ma che si è dedicato molto ai media e alle installazioni sonore, dunque in buona parte anche a una certa sound art, allievo e collaboratore di personaggi di compositori contemporanei come Domenico Guaccero, Antonio Scarlato, Guido Baggani e Giorgio Nottoli. Oltretutto ha anche studiato e ha seguito corsi di Karl Stockhausen e David Keane. È sicuramente un compositore interessante, perché uscendo dalla contemporanea però ha una fortissima attenzione all'aspetto del suono, e in particolare nel disco che andiamo adesso a presentare, Oltre il deserto spazio, Nicola Sani, insieme oltretutto anche gli Alter Ego, e questo è importante sottolineare, Alter Ego che oltretutto sono passati spesso all'interno di 451 frammenti sonori, lavora appunto su una sonorizzazione di dimensioni ambientali, però in una sorta di interazione, di dialettica con lo strumento acustico, in particolar modo in questo caso un flauto, che viene fortemente affettato dentro l'ambiente, creando un suono sicuramente molto suggestivo. L'intero album comunque merita di essere ascoltato, uscito per la Stradivarius nel 2002, e ha lavorato chiaramente, lo ricordiamo, Nicola Sani anche per la RAI e ovviamente per anche importanti media mainstream. Ce l'andiamo dunque a ascoltare, una traccia che può dare un'idea appunto di questa sorta di dialogo, di dialettica fra strumenti acustici e sonorizzazioni ambientali. Ce l'andiamo dunque ad ascoltare, Nicola Sani, Oltre il deserto spazio. E siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato questo splendido lavoro di Nicola Sani, ricordiamo ancora l'album Oltre il deserto spazio, uscito nel 2002, dunque ormai ha già 10 anni, ma continuano le composizioni, le realizzazioni sonore di questo compositore italiano semi sconosciuto, ma che siamo riusciti a intercettare tramite vie abbastanza complesse, ma sicuramente il disco perché ridi? No, per le vie complesse. Beh, vie complesse perché insomma attraverso un personaggio che salutiamo dalle frequenze Radio Città Capo, che oltretutto anche lui conduttore radiofonico a Radio Onde Furlane, dove in passato abbiamo anche noi insomma lavorato e collaborato, io in particolar modo perché vengo da quelle terre, e musicista oltretutto conduttore radiofonico, che ci ha appunto passato questo autore, questo compositore che lui è riuscito oltretutto anche a vedere dal vivo qualche tempo fa, questo Nicola Sani, che sicuramente almeno da questo disco, ma abbiamo anche un doppio molto interessante più recente che in un altro contesto sicuramente andremo a ripescare per proporre autori e compositori italiani che tante volte non attraversano 451 frammenti sonori, ma non per scelta, ma appunto rispetto a tematico o attraverso soprattutto scelte sonore e strutturali che molte volte per autori e compositori italiani non convincono pienamente la nostra programmazione sonora. In questo caso invece Sani è uno di quelli che potrebbe passare ancora in altri contesti, in altri percorsi o panorami sonori che affronteremo come 451. Da Nicola Sani andiamo a pescare invece un grande che anche già attraversato 451 in passato, un grande compositore e musicista che ormai ha parecchi anni di carriera, nato nel 43 come il compianto Lucio. Ah, Lucio Dalla, certo. Che citiamo soprattutto per i lavori più interessanti, sperimentali degli anni 70, che pochi conoscono e che molti stanno forse ritrovando adesso, perché con la morte stanno uscendo. No, fortunatamente si conoscono abbastanza rispetto a Terry Fox. Ah, quello sicuro, rispetto a Terry Fox sicuramente. Nel frattempo, speriamo che non ci sia dietro la radio qualche compositore italiano che magari ci aspetta per picchiarci, appunto, come mi prendo io le mie responsabilità. non c'entra Max, ti difendo, ok, grazie, ti difendo perché sai che insomma fino un po' polemico fino lo so, in fondo insomma. No, vabbè, no, il discorso sarebbe molto lungo quando ovviamente sentiamo quel carattere internazionale. Infatti, gli artisti italiani li passiamo, forse questo insomma quello che ci interessa. Terry Fox, che tra l'altro c'entra anche con l'Italia, non a caso, e questo è anche un po' il segno, no, che si vuole dare rispetto magari a periodi. Non abbiamo neanche citato a caso Lucio Dalla, è uscito casualmente, ma ci sta, e come ci sta dentro la cosa. E non è neanche un caso che Bologna quest'anno faccia tanti omaggi a John Cage, che ci siano anche in termini artistici mainstream di mostre, molte cose che ricordano una Bologna che non esiste più, morta, stramorta, quindi con tutta la nostalgia appunto del tempo che non potrà mai più tornare. Lo riprendiamo dopo questo discorso, perché se no non riusciamo a mettere Terry Fox, che lavora appunto a Laura di Santa Lucia, quando appunto Bologna era dentro un ambiente ricettivo, la stessa città era molto espressiva in questo senso di avanguardia, di sperimentazione. Ricordiamo il treno di Cage, ma appunto ne parliamo poi nella seconda parte di trasmissione con un personaggio che tra l'altro è stato anche da queste parti più o meno. Terry Fox per il momento.